Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi, finalmente insieme. Andiamo subito ai titoli del nostro sommario. Abbiamo Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Siamo pronti per partire. Ogni piede ha il suo tallone d'Achille. Quando il mal di pancia è donna, guardando si impara. A volte imputiamo alla luna storta il cattivo umore al piede con cui scendiamo dal letto. Il piede incriminato è generalmente quello sinistro. È chiaro che il poveretto non ha alcuna responsabilità sul nostro umore, ma è invece capace di farci vedere le stelle, capacità che tra l'altro condivide con il suo compagno. Così si scende dal letto e sono dolori. A volte passano, a volte restano a farci compagnia per tutta la giornata, oppure piano piano se ne vanno per tornare alla sera. Possono interessare tutto il piede, prendere di mira alcune parti, ad esempio la pianta e il tallone. Se i vostri piedi si lamentano, questa puntata è proprio pensata per voi. Se volete intervenire, chiamateci subito. Il nostro numero verde è già attivo, 800 24 0024. Il numero per inviare i messaggi, 349 238 6666. In studio con me oggi abbiamo il dottor Riccardo Benvenuti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Dirigente di primo livello della divisione universitaria dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, ma in studio è tornato a trovarci come ogni mese Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Starbene, il mensile Mondadori. Ciao Nicoletta. Bentornato. Anche a te. Che tra l'altro a questo argomento dedica un servizio molto interessante. E Alessandro, se ve ne occupate voi di star bene, vuol dire che questo è un problema che interessa in modo particolare noi donne. Esatto, perché abbiamo scoperto che se 3 italiani su 10 almeno una volta nella loro vita hanno un problema di tallone d'Achille, cioè hanno un problema al tallone, soffrono per questo motivo, voi donne siete la maggioranza. E in questo periodo giustamente tu ti occupi del problema, perché state cambiando scarpe, no? E quindi cambiare scarpe, come vedremo, può fare la differenza. Dottor Benvenuti, allora, i piedini delle donne, i piedini di fata sono leggermente più a rischio di quelli degli uomini, perché? Ma io sono d'accordo sino a un certo punto. Bene. A questa definizione che ha dato, in quanto sicuramente c'è una differenza tra i sessi, ma secondo me è da attribuire soprattutto alla tipologia della scarpa, cioè non esiste una morfologia di piede diversa maschio femmina. Sì. Esiste una tipologia diversa di tipo calzatura. Le donne nostre, soprattutto le nostre donne italiane, hanno sicuramente delle calzature molto eleganti, ma molto, se vogliamo dirlo, impegnative, poco comode. Invece posso dire che esistono varie morfologie di piede che possono dare delle problematiche alla pianta, al tallone, a volte anche antitetiche tra di loro. Piedi piatti, piedi cavi possono dare tutte e due delle problematiche di dolore, di talalgia, pur avendo delle situazioni morfologiche completamente diverse. Un piede piatto è più lasso, è più morbido, un piede cavo è più elastico, meno elastico, più rigido, meno ammortizzante. Quindi oltre che la calzatura può fare la differenza proprio il tipo di piede. Alessandro? Sì, io forse mi sono spiegato male, non intendevo che le donne... Ti sei sentito donne, no, non volevo in quanto no, però è bene precisare, donne in quanto donne hanno il problema perché sono donne. Sono solo semplicemente di più, probabilmente perché usano tipi di scarpe. Noi i tacchi non, generalmente non li portiamo, quindi tutto qua. Dottor, se posso aggiungere una cosa, ad esempio nella prescrizione di una soletta è molto difficile che una donna la porti, in quanto la calzatura non accetta un plantare. Infatti, o perlomeno un determinato tipo di calzatura. Senta dottore, prima di accorgerci che i nostri piedi possono avere qualche problema al tallone, potremmo individuare dei segnali che possono farci capire che il nostro piede è un po' a rischio. Basta dare un'occhiata bendata. Sicuramente sì. Però solitamente uno non si occupa dei propri piedi, cioè si occupano solo nel momento in cui ha dolore. Allora, nel momento in cui ha dolore se li va a guardare. Sì. E allora cosa scopre? Scopre delle callosità che a volte si autoelimina da solo, oppure dal proprio pedicure, che però callosità che inevitabilmente tendono a ripresentarsi. E se è molto attento può notare un consumo di una calzatura un pochino anomala, un consumo della suola, del tacco sul bordo esterno, sul bordo interno, tende a far pensare a un appoggio non corretto del piede a terra. A questo punto il paziente comune chiaramente si rivolge al proprio medico per poter avere delle spiegazioni. Quindi questi sono dei segnali che possono avvertirci che il nostro piede potrebbe avere dei problemi. Quindi callosità, e guardate come consumate le vostre scarpe. O forse portatele al medico a questo punto, perché voi guardando le scarpe, questo non lo sapevo, potete... Sì, tanto dal medico è difficile che uno vada scalzo. No, ma quelle, come dire, che danno più problemi, no? Certo. No, non è sufficiente, chiaramente, però certo. Diciamo, è un elemento di allarme su un piede che non sta lavorando bene. Allora, intanto osservate i vostri piedi, soprattutto adesso che avete le scarpe, guardate le vostre scarpe, sicuramente sapete se avete delle callosità, che sono proprio segno di un cattivo appoggio del piede. Intanto, dato che avete le mani libere, chiamateci 800-24-0024, i messaggi come sempre al 349-238-6666, parleremo di prevenzione, ma ci occuperemo anche di chi invece sta già vivendo il problema e quindi ha già dei piedi dolenti. I nostri punti in cui concentreremo la nostra attenzione sono soprattutto il tallone e la pianta del piede. Quindi se volete intervenire, noi vi aspettiamo per prenderci cura dei vostri piedi, li affidiamo alle mani dei nostri esperti. 800-24-0024. Una mela al giorno. La settimana scorsa abbiamo dedicato l'intera puntata al dolore di pancia. Oggi, nel nostro spazio dedicato al benessere, riprendiamo l'argomento per parlare di un dolore tipicamente femminile, il dolore mestruale. Prima di presentarvi la nostra ospite, faccio subito una breve premessa. Parliamo di un dolore disturbante, anche invalidante, ma che non è spia di una patologia ginecologica. Insomma, un dolore che ci dà appuntamento tra alti e bassi in modo costante ogni mese, che può durare da qualche ora a qualche giorno. In linea con noi abbiamo la dottoressa Maria Luisa Muggiasca, ginecologa all'ospedale Luigi Sacco di Milano. Buongiorno dottoressa, bentornata. Buongiorno a voi e ben ritrovati. Dottoressa Muggiasca, iniziamo subito dalla fase acuta. Quando avvertiamo dolore, meglio il caldo o meglio il freddo? Sicuramente meglio il caldo. Il calore e la posizione accovacciate sono sicuramente due armi vincenti che ognuno di noi può mettere in atto proprio per cercare di combattere questo fastidioso problema, chiamiamolo così. Dottoressa Muggiasca, parliamo di antidolorifici, alcuni più mirati di altri, ma a volte si passa da uno all'altro perché dopo un po' di tempo sembra non facciano più effetto. È normale tutto questo, ma o a lei legge qualche cosa di diverso? I farmaci sicuramente più efficaci per combattere il dolore mestruale sono gli antinfiammatori. Gli antinfiammatori perché tendono a determinare una minor produzione di prostaglandine, che sono in realtà le responsabili dei dolori mestruali. Cioè il dolore mestruale è proprio l'utero che si contrae e mima in qualche modo le contrazioni che ci sono anche al momento del parto e In effetti anche al parto le prostaglandine sono presenti, così pure come nel dolore mestruale. Quindi i farmaci antinfiammatori, che sono anche dei farmaci antiprostaglandinici, hanno sicuramente un effetto benefico. Sarebbe meglio però, come consiglio, cercare per le persone che hanno un ciclo mestruale regolare magari di prendere una compressa uno o due giorni prima dell'arrivo delle mestruazioni per sfruttare al meglio l'effetto benefico della pastiglia, della compressa, e quindi non imbottirsi il giorno della mestruazione pensando di avere un risultato più rapido, perché molto spesso questo non è. Se il dolore però tende a assumere delle caratteristiche diverse nei mesi successivi, forse a questo punto è meglio anche rivolgersi ad uno specialista, certo, e confrontarsi per una terapia diversa, insomma, o per cercare di capire cosa c'è eventualmente che non funzioni. Dottoressa Muggiasca, quali altri cambiamenti dobbiamo prestare attenzione? La caratteristica del dolore. Solitamente il dolore mestruale, nella sua, diciamo così, manifestazione più classica, è proprio il dolore, come ha detto lei, che insorge nel momento in cui c'è la mestruazione e poi nell'arco di qualche ora o al massimo di qualche giorno tende a scomparire. Invece l'avere mestruazioni assolutamente in modo silente all'inizio e poi invece avere una comparsa di un dolore sempre al basso ventre al terzo, quarto, quinto giorno potrebbe farci pensare che sia qualche cosa che di diverso che stia comparendo, e quindi essere la spia per indurci ad andare andare dallo specialista. Dottoressa Muggiasca, abbiamo parlato di posizioni da tenere, del caldo meglio del freddo, di antidolorifici. Vorrei aprire una breve finestra sull'agopuntura, che risulta molto efficace nel trattamento del dolore, e là dove è necessario quegli integratori che vengono consigliati per prevenire in qualche modo non solo i dolori mestruali ma la sindrome premestruale, quindi il dolore associato a una certa irritabilità, mancanza di concentrazione. L'agopuntura lei come ginecologa la consiglia? Io la consiglio perché ci sono degli ottimi risultati, devo dire soprattutto in soggetti che la seguono in modo costante. Ecco, magari la pastiglia è preferita da persone che hanno bisogno di controllare il dolore subito, che non hanno magari tempo da dedicare, ahimè, per quello che sono i segnali del nostro organismo, ma per persone invece che vogliono appunto avere qualcosa di alternativo e non il farmaco in quanto tale, l'agopuntura offre sicuramente una valida alternativa. Ide come sopra anche il discorso degli integratori. Sì. Adesso ci sono diverse tipologie di farmaci, tra virgolette, perché in realtà appunto contengono soltanto vitamine piuttosto che magnesio e quant'altro, che si è visto essere carente nella seconda parte del ciclo, e quindi questi integratori, oltre a controllare il dolore della mestruazione, possono anche controllare i sintomi che molto spesso si accompagnano, quali appunto la mancanza di concentrazione, la modificazione dell'umore, che in modo altrettanto pesante possono, certo, influenzare, diciamo così, la nostra vista sociale. Dottoressa Muggiasca, la ringrazio per questi consigli, la saluto e le auguro una buona giornata. Grazie altrettanto a voi e a tutte le donne che in ascolto. Grazie. Pronto soccorso. E torniamo ad occuparci dei nostri piedi. Se vi fanno male non preoccupatevi, avete solo da chiamare il nostro numero verde 800 24 0024. Li affideremo al dottor Benvenuti. In linea con noi però abbiamo anche il professor Fulvio Pallombini, reumatologo, buongiorno, docente in fisioterapia. Buongiorno. All'Università La Sapienza di Roma, Ospedale Sant'Andrea, e direttore della Scuola Shiatsu di Roma. Professore, c'è anche Alessandro Pellizzari qua in studio con noi, di vice caporedattore di Star Bene. Dicevo, le affidiamo alle mani dei nostri esperti, ma con lei dovrei dire dita, perché lei ci insegnerà alcune digitopressioni per un autosciazzo ad effetto preventivo. Insomma, come si dice, una buona manutenzione garanzia di buon funzionamento. Insieme al dottor Benvenuti dicevamo che ci sono dei segnali che possono farci capire che il nostro piede è in qualche modo un po' a rischio e potrebbe magari arrivare ad avere qualche dolorino nel tallone o nella fascia, soprattutto se ci sono delle callosità, oppure se abbiamo le scarpe consumate sui tacchi più da un lato che dall'altro. Allora, io vorrei che lei ci aiutasse a giocare d'anticipo e ci aiutasse a distendere, rilassare o rinforzare, mi aiuti lei a trovare le parole giuste, tre punti che mi sembra siano quelli più critici, e cioè la pianta, il tallone e anche il bel tendinone d'Achille. Proviamo a lavorare su questi tre punti? Certo. Intanto io direi guardiamoci un po' di più questi piedi, perché noi poggiamo chiaramente il piede, è fondamentale per la postura chiaramente. Certo. Quindi la sera sempre, quando ci si toglie le scarpe, ci si lava, sempre controllare il piede che non abbia callosità, sì. Poi stando seduti in modo particolare verificare l'arco plantare, cioè con il pollice si prende il piede sinistro, quindi il piede opposto, e con il pollice si fanno delle belle pressioni sull'arco plantare, la parte interna dell'arco plantare, quella è la parte della spinta del piede, è una parte che si affatica molto, sì. Quindi alcune pressioni con una certa intensità. Ricordo che l'autosciasso è una tecnica importante, sì, che ci consente di, siccome si fa, lo facciamo su di noi, noi possiamo regolare perfettamente la pressione, e la pressione giusta è quella che arriva al dolore senza che evochi una sensazione esageratamente spiacevole. Come diciamo sempre quando parliamo con lei, un benefico dolore, un piacevole dolore. È la regola fondamentale nel piede più che mai, perché nel piede bisogna stare molto attenti, si nascondono molte problematiche nel piede, e riuscire a decontrarre il piede, appunto la fascia del piede soprattutto, è fondamentale per la salute dei nostri piedi. Andiamo al tallone. Sì. tallone è un altro punto molto, molto importante, un punto di appoggio fondamentale nel piede. Spesso si infiammano quelle piccole celluline, quel tessuto grasso che è attorno al tallone, si chiama cellulalgia, un dolore proprio di quel tessuto adiposo, e anche lì con molta pazienza, questa volta con tutta la mano, non solo con il pollice, perché la pressione del pollice è molto intensa, invece con tutta la mano, sa come si spreme un limone, un arancio? Sì, sto provando. Nella sì. mano. E poi si spreme con una certa intensità e si fa più volte. Bello. Più volte vuol dire 15-20 volte tutte le sere. Questo è molto, molto, molto importante. E il tè? Alessandro Pellizzari vuole fare una domanda. Sì. Cercava di togliersi le scarpe anche lui, ma io l'ho fatto, ma lui non ha avuto il coraggio, no, perché è educato. Professore, molto efficace questa immagine. Approfitto della sua competenza per girarle una domanda che mi ha colpito, che sul forum del mio giornale Star Bene, sul sito di Star Bene. Mm. E in questo periodo ci sono molte mamme in attesa. E una di loro chiedeva se è vero che in gravidanza bisogna evitare le manipolazioni dei piedi, perché in qualche modo possono essere, fra virgolette, pericolose. Professor, è una cosa Parolini. Campata in aria o ha del vero? Io credo che in gravidanza bisogna toccare molto i piedi. Ah, ecco, il contrario quindi. Proprio perché in gravidanza cambia completamente l'assetto posturale, quindi è fondamentale che il piede fatica moltissimo in gravidanza. Quindi tra l'altro c'è tutta la spinta vascolare, il piede è considerato un po' un cuore, un secondo cuore per l'importanza vascolare oltre che posturale. Quindi va massaggiato. Quindi il contrario, cioè. Il contrario, io sono assolutamente per fantastico. Una gravidanza, il massaggio è veramente la terapia d'elezione per chi crede chiaramente nel massaggio. Senta professore, e noi vorremmo un consiglio rapido sul tendine. Sì, guardi, il tendine è una struttura molto pericolosa, bisogna trattarla con grande esperienza, con i guanti bianchi proprio. Quindi il consiglio che posso dare è, quando fa male un tendine, di non toccarlo, sì. Questo sì, mentre si può toccare dolcemente, mi riferisco al tendine d'Achille, ma in linea di massima a tutti i tendini, il tendine d'Achille in modo particolare, una brutta trappola anche per il riabilitatore esperto, e quindi massaggiare con un po' di intensità, sempre il solito discorso, soprattutto la gamba, i muscoli gemelli, i muscoli posteriori, sì. Ma non toccare troppo il tendine, meglio quando fa male il tendine, meglio toccare con intensità la pianta del piede, il gemello, sì. Mentre per il tendine direi di fare degli impacchi freschi, ecco così, impacchi freschi, usare qualche crema lenitiva e poi affidarsi al personale esperto, perché con il tendine non si scherza. Professor Palombini, grazie per essere venuto a trovarci e grazie per questi consigli. Buona grazie giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti, grazie. Noi andiamo nella provincia di Napoli, vogliamo perché ci aspetta Antonio prima dei mercati. Antonio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io avevo una domanda da fare al suo ospite. Sì. Io presento questi problemi. Quando rimango più tempo all'impiedi, oppure quando cammino un po' in più, mi prende un dolore sotto la pianta del piede sinistro. Sì. E poi a volte da fermo quando guido, perché faccio un lavoro che ha a che fare spesso con la macchina, sì. Mi vengono dei crampi sempre sotto questo piede qua. Sempre lo stesso. Sempre Antonio, lo stesso. Lei è in peso forma o un po' sovrappeso? Perché mi sembra che questa sia un'indicazione che al nostro esperto può essere utile. Lei come diciamo si sente? Morbido o secco? Una via di mezzo. Una via di mezzo. Antonio è perfetto, eh? Io sono 1,78 m per 85 kg. Dai. Allora, dottor Benvenuti. Che tipo di lavoro fa? Faccio rappresentante. Rappresentante, quindi cammina molto. Con l'auto principalmente. Detto così, il problema potrebbe essere di due tipi. Uno, legato al tendine d'Achille sicuramente, una brevità del tendine d'Achille che non le permette quindi una buona mobilità della caviglia e conseguentemente anche un dolore poi irradiato alla fascia del piede. Oppure se ha un piede molto cavo, però questo chiaramente in radio non è possibile apprezzarlo, vederlo. È possibile che abbia una infiammazione della fascia, cioè una fascia che è quella zona fibrosa che sottende il piede, che sottende l'arco plantare, che si infiamma e che quindi è molto tesa, molto quindi poco praticamente elastica. La pianta del piede che è in qualche modo il tessuto che è più infiammato, poco ammortizzante, conseguentemente usandolo da segno di noi sé. Dobbiamo andare ai mercati, ma io vorrei che dottore, che lei desse a Claudio un'indicazione, perché si ritrova in queste situazioni, cioè ogni tanto ha questo dolore alla pianta dei piedi, che cosa deve fare? Posare una pomata, mettere il ghiaccio, cambiare calzatura, la prima cosa sarebbe quella di fare una diagnosi corretta, chiaramente, sì. Perché a seconda che sia un problema di tendine d'Achille piuttosto che di fascia, chiaramente i provvedimenti sono lievemente diversi. Però chiaramente impacchi di ghiaccio la sera, calzatura molto un pochino più morbida sicuramente, più ammortizzante, questo lo potrebbe sicuramente aiutare. Eccoci, siamo tornati insieme. Piede, tallone e fascia plantare. Se questi sono i vostri punti critici, chiamateci 824 0024. Cercheremo di capire anche se il modo in cui si manifesta il dolore può darci indicazioni riguardo alla causa che lo scatena. I messaggi al 349 238 6666. Mi è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola Cosmetici naturali fai da te. Per ricevere questo libro a casa dovete essere il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it, dove dovete mettere il titolo del libro, il recapito e il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Claudio ci chiama da Modena, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, il mio problema è la pianta dei piedi. Io ho problemi. Meno male che c'è. No? Sì, certo. Allora, il mio problema innanzitutto è questo: trovare, quando vado a comprare scarpe, un paio di scarpe che mi attutisca questo dolore. E normalmente per questo io consumo un paio di scarpe a stagione, perché una volta trovato quello giusto, non lo toglie continuo più. A utilizzare sempre quello, perché ogni volta che cambio scarpe ho male, mi viene male alla pianta del piede. La cosa si accentua d'estate, quando passo da scarpe invernali con diciamo uno spessore di gomma o che attutiscono al cuoio. Io quando passo le scarpe estive sento come delle scariche elettriche, sì, che vanno dalla parte dell'incavo verso le dita del piede, e questo camminando normalmente. Ma quindi lei lo avverte quando si muove questo dolore? Perché mi servono delle indicazioni. Lo avverto quando mi muovo, sì. Allora, sì. Dottor Benvenuti. Sì, dalla descrizione che ha fatto il signore alla radio, è probabile che lui abbia un piede cavo. Un piede cavo, quindi un piede sicuramente... Con un arco molto pronunciato. La cosa che mi mette sulla strada è anche il discorso del cambiamento di scarpa estate-inverno. Probabilmente d'inverno usa delle scarpe con la gomma sotto, molto ammortizzanti, mentre il cuoio ha una suola molto sottile, molto leggera, e che quindi non permette una buona ammortizzazione del peso. Non sappiamo quanto pesi il signore, che tipo di lavoro faccia, però diciamo che da quello che racconta è possibile che abbia una morfologia di piede cavo che conseguentemente porta a questo tipo di problematiche. Ma ad esempio Claudio non potrebbe avvantaggiarsi dell'utilizzo di un plantare fatto ad hoc? Mi immagino un plantare un po' morbidino. Claudio, mi scusi, mi sto prendendo cura dei suoi piedi. Assolutamente sì, in base alla morfologia del piede, del suo calcagno eccetera, si può studiare un plantare ad hoc su misura, fatto su misura, non quindi industriale, sì, che possa aiutarlo a sopportare la statica eretta e quindi il cammino. E quindi anche il cambio. Claudio ci faccia sapere, ma intanto dottore io volevo capire, il tipo di dolore può darci delle indicazioni per capire se si tratta, stiamo sulla pianta dei piedi e quindi sulla fascia, se è un problema, un dolore dovuto ad un'infiammazione, perché magari ci appoggiamo male, oppure se l'infiammazione è abbastanza reumatica? Certo, quasi sempre sono dolori di natura meccanica dovuti a una postura del piede scorretto. Sta di fatto che uno, dopo una lunga camminata, è uno dei più grandi piaceri quello di arrivare a casa e togliersi le scarpe. Quindi sì, è un dolore che passa a riposo, che passa con un bel pediluvio, con un pediluvio bello fresco. Il dolore invece reumatico, un dolore più sistemico, è un dolore che non ha delle regole di orari, di carico, eccetera. È un dolore che può esserci anche di notte, ad esempio, e conseguentemente ha delle caratteristiche molto diverse. Quindi non è legato al carico, al lavoro, ma è legato proprio alla patologia reumatica. Sì, è un po' più balzano, viene un po' balzano, quando vuole. Però è più continuo. Più continuo. Alessandro? Volevi intervenire o posso dare la parola a Marco? No, dai pure la parola a Marco. No, è interessante però questa cosa, questa differenza sui dolori, perché ci aiuta molto a noi, diciamo, pazienti, sì, a chi c'è passato, per esempio. Io mi sono Noi bipedi, così sappiamo. Mi sono riconosciuto in questa cosa della notte e del continuo. Allora, andiamo nella provincia di Lecco perché c'è Marco. Buongiorno, Marco. Sì, buongiorno. Il mio problema è il tallone. Oh, bene, perché questo è l'altro punto di cui ci occupiamo, per cui la ringrazio, perché è stato tra l'altro anche un problema di Alessandro Pellizzari, mi raccontava. Vediamo se le vostre storie sono simili. Marco? Il mio, da una settimana, quando fletto il piede verso di me, diciamo, avverto degli spilli e un dolore molto, molto, molto forte, diciamo, e camminando invece non ho dolore, soltanto se fletto molto il piede. E premetto che non ho subito nessun trauma particolare, ho svolto una vita normale, camminando normalmente, senza nessun trauma. Ma Marco, lei è uno sportivo, è normopeso, sovrappeso, ci dica normopeso, qualcosa di lei. Allora, sono alto 1,85, peso 80 kg e sportivo non più di tanto, nel senso cammino, nuoto, ma saltuariamente. E che scarpe porta, Marco? Mocassini o allacciate? Scarpe da tennis, allacciate. Scarpe da tennis, c'era anche la canzone. Sì, dottore. Adesso, quanti anni ha l'ascoltatore? 36. Potrebbe avere un'iniziale spina calcaneare, quindi una conseguente infiammazione della fascia plantare. Però se data da raccontiamo allora che cos'è questa spina, che è proprio spina, una spina, fa un po' spavento, perché sapere che abbiamo una spina, lo speroncino. Lo speroncino, sperone, spina, che viene chiamato in tante maniere. La prima cosa che tengo a precisare è che non necessariamente presenza di spina calcaneare vuol dire dolore al tallone. Ci sono molte persone che hanno le spine calcaneari, non sanno neanche di averle, ma conseguentemente non hanno nessun dolore. Quindi diciamo che non è l'unica responsabile del dolore al tallone. Sì, ma com'è fatta questa? Questa spina calcaneare è una, se posso dire una parola un po' scientifica, è una deposizione di sali di calcio nella zona di inserzione della fascia plantare a livello del calcagno, che è condizionata da un'infiammazione della fascia plantare. Sì. Cioè tutto viene dall'appoggio del piede, dalla fascia plantare. Depositando dei sali di calcio lungo le linee di forza della fascia plantare si crea proprio questa spina, questa freccia, questa una specie di ossetto. Non è un sassolino. È più a punta. Sassolino nella scarpa. Si chiama spina perché appunta. A spina perché appunta. Perché appunta, che poi viene identificata come la responsabile del dolore, della talalgia. Ecco, ed è se è presente, se è una di quelle spine cattive che fanno male, perché non tutte possono fare male, il dolore proprio si presenta come ce l'ha descritto il nostro amico. Nella flessione del piede verso il davanti, proprio dove finisce il calcagno, l'inserzione della fascia plantare. Però è una cosa meccanica, cioè non c'entra l'alimentazione, perché senti un deposito. No. Ecco. Raramente sono legate a problemi tipo diabete, gotta, ipercolesterolemia, eccetera, ma sono veramente rare. È molto più facile che siano legate a problemi di natura meccanica. Cosa succede se trascuro questo dolore, se non me ne occupo, insomma resisto? Può provocare un'infiammazione? Può aumentare, aumentare, anche perché purtroppo uno sui piedi ci sta dalla mattina alla sera, cioè uno non è che possa mettere a riposo. Quelli di ricambio, No, non può camminare sulle mani, deve per forza camminare. E quindi chiaramente un dolore che non viene al tallone, che non viene trattato, può andare incontro a un aumento del dolore sino a rendere più difficile la vita di relazione, il cammino, eccetera. È necessario operarlo, rarissimamente. Abbiamo però tante si può eliminarlo questo. Ma eliminarlo no, diciamo che adesso ultimamente abbiamo queste applicazioni che si chiamano onde d'urto, che qualcuno dice che frammentano la spina. Io non ci credo moltissimo, però aumentando la vascolarizzazione, quindi l'apporto di circolazione a questo livello, hanno una potentissima azione analgesica e antinfiammatoria. L'ammalato continua a avere la spina ma non ha dolore, ecco, quindi la facciamo diventare brava. siamo di nuovo qui. Allora, la spina, dottore, non è detto che faccia male. Se fa male, però, si può così convincerla a diventare meno fastidiosa. Lei parlava di onde d'urto. Ci sono altri trattamenti? Assolutamente sì. Chiaramente il riposo dell'attività sportiva è la prima cosa da fare. Abbiamo tutta una gamma di trattamenti fisioterapici, la laser terapia è abbastanza efficace e io poi faccio spesso ricorso a infiltrazioni di cortisone. Il cortisone è il più potente degli antinfiammatori e conseguentemente mettendone una piccola goccia nella zona dove io voglio che esplichi la sua azione ho dei risultati molto validi, chiaramente uniti a un plantarino. Sul cortisone ci sono due scuole differenti, vero? Sì, assolutamente sì, però in questa zona è abbastanza innocuo, non ci sono tendini, quindi non può essere lesivo in strutture molto importanti, c'è solamente l'inserzione della fascia e poi direi che molte volte è risolvente, diciamo che non è l'unica l'unica trattamento da subito sollievo comunque, no? Se uno si aggiunge una goccia di carbocaina, cioè di anestetico, sì, io preferisco non aggiungere per problemi di allergia nessun tipo di anestetico, ho un effetto un pochino più ritardo, ma un effetto sicuramente valido. Abbiamo Roberto, ci chiama da Modena. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, io chiamavo giusto per confermare il discorso dei piedi. Ho una moglie che fa la cuoca, quindi stava molto in piedi, ha cominciato con le screpolature nel tallone. Sì. Queste screpolature veramente molto profonde che facevano anche molto male. Sì. E poi da lì è passata ad avere dei calli. La nostra fortuna è stata che una persona conoscente ci ha indirizzato in un centro dove in pratica fanno i plantari su misura. Bene. E una volta messi questi plantari ha migliorato, in pratica sono sparite le screpolature, sì. Non ha più calli ai piedi e certo. È migliorato anche il mal di schiena. Vede, però Roberto, quindi una storia a lieto fine, soprattutto perché evidentemente stando sempre in piedi poi aveva magari un appoggio non corretto, dottor Benvenuti, è lì il plantare e anche Roberto sottolinea il plantare su misura, quindi fatto proprio cucito come un abito di alta sartoria. Dottore? Sicuramente, teniamo conto che noi non abbiamo mai due piedi uno uguale all'altro, quindi chiaramente il plantare deve essere fatto su misura e la spiegazione che ha dato l'ascoltatore è molto interessante, in quanto il plantare probabilmente è riuscito a omogeneizzare il carico, il lavoro del piede a terra e conseguentemente a distribuire il lavoro in maniera ottimale e quindi si è avuta la scomparsa delle callosità, la scomparsa del dolore e anche del mal di schiena, anche se su questo ci potremmo parlare più a lungo. E Roberto ci ha dato tanti spunti con la sua storia, quindi del beneficio di un plantare su misura, ma faceva riferimento a questo tallone che si fessura ed è un aspetto di cui vogliamo parlare oggi insieme a noi la dottoressa Emanuela Gibelli, dermatologa a Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Le dice qualcosa la storia di Roberto? Noi vogliamo occuparci della pelle del tallone che spesso è spessa, scusate la ripetizione, e si fessura. Certo. Come mai? Anzi, ci sono queste callosità, dottoressa, che a volte sembrano quasi verruche, si fa un po' di almeno per noi che non siamo medici è difficile un po' riconoscere queste due situazioni, dottoressa. Allora, innanzitutto diciamo che le iperkeratosi, perché questi spessimenti del tallone o comunque della pelle in generale si chiamano appunto iperkeratosi, possono naturalmente essere dovute a tantissimi motivi, a tante cause. Alcune sono proprio delle vere e proprie patologie, come ci si ricorda la psoriasi o tante altre. A volte invece, come diceva appunto Roberto, si tratta semplicemente di una non adeguata magari calzatura, piuttosto che errate posizioni, anche stando troppo in piedi, eccetera, o un po' di sovrappeso. Allora, cosa succede? Che la pelle, quando diventa più spessa, inevitabilmente diventa anche molto secca, disidratata e quindi sollecitata proprio dalla continua pressione stando in piedi si fissura e quindi queste ragadi che sono dolorosissime peggiorano sempre più se non si fa qualche cosa per evitarle. Uno degli esempi, tra l'altro, ecco, parlando anche di signore eccetera, specialmente nella fase della post menopausa, proprio a causa di una carenza di estrogeni è frequente trovare questi spessimenti sulla zona proprio laterale del tallone, con queste fissurazioni veramente molto dolorose, e spesso semplicemente dando una terapia sostitutiva questo genere di problematica, per esempio, si risolve. Ecco, in effetti questo è un aspetto che interessa a noi come Essere Benessere, ma anche Alessandro Pellizzari, che nel numero in edicola di Star Bene dedica proprio al problema del piede, soprattutto al piede femminile, essendo un mensile che è rivolto soprattutto alle femminile. Donne, però possono leggere anche gli uomini. Passato regolarmente a mariti e fidanzati, quindi infatti, questo lo sappiamo. E questo è un aspetto che gli interessa molto. Io vorrei, Alessandro, però, possiamo dire come si curano, come si eliminano come queste ragadi, dottoressa? Dunque, innanzitutto passiamo, ecco, parlando anche poi, ecco, della differenza che c'è tra la ragade e la callosità e quindi la verruca, perché proprio per ritornare al discorso di prima, c'è una differenza tra quella che è l'ispessimento un po' generalizzato e la callosità generalizzata di un tallone e una verruca che invece è una zona di ispessimento un po' più localizzata con al centro i famosi puntini nerastri, sì, che la rendono abbastanza facilmente riconoscibile. Allora, come si curano? Naturalmente, se c'è un ispessimento generalizzato bisogna utilizzare dei cheratolitici, cioè delle sostanze che sono chimiche, quindi sono creme, famose sono quelle a base di urea a varie concentrazioni a seconda della problematica, e spesso e volentieri utilizzate in occlusiva, cioè utilizzando magari specialmente alla notte quella tipo la pellicola trasparente che normalmente si usa per avvolgere i cibi, perché fatto in questo modo agisce molto più velocemente e dà dei risultati molto più veloci. Sì. È chiaro che riducendo tutto questo ispessimento e reidratando notevolmente la pelle, poi il piede torna a respirare. Esatto, torna un po' nella sua situazione ottimale. E poi se ci sono delle piccole patologie sovrapposte, naturalmente si può, allora a quel punto, non avendo più la pelle così spessa, intervenire con delle terapie specifiche a seconda del caso. È fondamentale però quello che si diceva prima, utilizzare delle calzature adeguate e quindi andare questo, a correggere. Certo, questa è una regola che ripetiamo sempre. Alessandro? Dottoressa, le elettricisti Star Bene notano che soprattutto nel momento in cui si scoprono i piedi, cioè d'estate in spiaggia col mare, l'acqua salata probabilmente, il fenomeno si accentua. Si può prevenire in qualche modo? Bisogna idratarli di più? Che cosa si può fare? Sì, indubbiamente. Questo è proprio come dicevo prima, magari anche camminando scalzi e così via, c'è questo aumento dell'ispessimento. Senz'altro l'idratazione è fondamentale. Oramai ci sono in commercio tantissime creme a base di vari prodotti, ma tra cui l'urea, ma non solo, che utilizzati in modo costante. E come dicevo prima, un po' il segreto è l'occlusiva, perché bastano 2 o 3 giorni di queste occlusive e il piede torna come prima. Dottoressa, siamo in chiusura. 10 secondi per dare un consiglio a chi invece ha i piedi un po' macerati, soprattutto nella pianta, perché soffre di sudorazione eccessiva. Meglio il talco o le lozioni? Le lozioni. È importante naturalmente avere un'igiene accurata prima di mettere le lozioni, perché se si utilizzano dei prodotti che contengono anche dei blandi antisettici, sicuramente si riduce anche tutta la problematica legata ai batteri che certo. si sovrappone a una e poi un bel calzino di cotone. Esatto, un calzino di cotone. E una scarpa che respiri. Ecco, si dovrebbero evitare le scarpe troppo occlusive. Certo. E poi le lozioni che contengono varie sostanze assorbenti e antisettiche sicuramente aiutano molto. Dottoressa Gibelli, la ringrazio e la saluto. Grazie, saluto anche il dottor Benvenuti che ci ha accompagnato e spiegato che cosa capita ai nostri piedi, ci ha insegnato a prendercene cura. Alessandro Pellizzari, grazie per grazie essere a te, venuto Nicoletta. A trovarmi. Ti aspettiamo il prossimo mese. Volentieri. Noi abbiamo come sempre un appuntamento domani dopo il GR delle 11 e quindi io vi aspetto. A domani, buona giornata.